in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei giornali italiani che oggi hanno aperture abbastanza diverse. Cominciamo dal Sole 24 Ore che torna sulla vicenda tutt'altro che risolta di Volkswagen. Il titolo è Bufera su Bruxelles, Italia un milione di auto a rischio. Perché bufera su Bruxelles? Perché secondo quanto si è saputo ieri, l'Unione Europea sapeva già da 2 anni di queste emissioni truccate. La replica è, abbiamo già predisposto i nuovi test. E perché il titolo Italia un milione di auto a rischio? Perché c'è un indotto legato alla crisi della Volkswagen che potrebbe appunto avere delle conseguenze da questo tracollo del colosso tedesco. Molti commenti, ce n'è anche uno di Dino Pesole, un'analisi, rischio fiducia sulla fragile ripresa e un approfondimento su quello che è successo in borsa questa settimana, perché in una settimana non soltanto il titolo Volkswagen ma tutti i titoli del settore hanno perso moltissimo in borsa. Il grafico è veramente impressionante, perché quello che ha perso di più naturalmente è Volkswagen, che ha perso 25 miliardi di capitalizzazione, ma anche gli altri, quindi Daimler Chrysler, il gruppo che controlla Mercedes, BMW, Audi, Porsche, Renault, PSA cioè Peugeot, e poi FCA, il gruppo Fiat Chrysler, hanno tutti perso per un totale appunto di 50 miliardi in fumo, come si legge appunto sul Sole 24 Ore, per i big europei. Un altro titolo che riguarda un po' tutti è quello sugli ecobonus. Sono una dichiarazione fatta ieri da Padoan, il ministro dell'economia, che prevederebbe una proroga da 350 milioni, conferma e ampliamento dei crediti d'imposta per l'edilizia nel 2016. Vi segnalo dalla prima pagina del Sole 24 Ore anche il commento di Bruno Forte, arcivescovo di Chieti Vasco, al viaggio del Papa prima a Cuba e poi negli Stati Uniti, le parole di Francesco tra profezia e diplomazia. E poi, come ogni domenica, la lettera al risparmiatore di Vittorio Carlini, che si concentra su un titolo quotato. Questa settimana è la Save, la società che gestisce gli aeroporti di Venezia, ma anche quelli di Verona e Brescia. Vi dicevo che trovate poi l'approfondimento su questa capitalizzazione in fumo non soltanto di Volkswagen ma di tutti i titoli auto dell'Europa. Trovate l'approfondimento a pagina 3 di Andrea Franceschi, con questo grafico che spiega meglio di tante parole appunto la debacle in borsa di questa settimana. Il Corriere della Sera titola non vendete quelle auto, è un virgolettato, perché la Volkswagen, come una delle prime misure per ripristinare la fiducia e soprattutto per correggere questo errore fatto sulle centraline che falsificavano i dati sulle emissioni, ha scritto a tutti i concessionari italiani, e il risultato sarà che verranno richiamati tutti i veicoli in circolazione. La fotonotizia però del Corriere della Sera è dedicata a Putin. C'è all'interno poi a pagina 15 una pagina intera di Paolo Valentino che prende spunto dalle ultimissime mosse di Vladimir Putin, del presidente russo, ma cerca appunto di capire come si sta muovendo il presidente russo, che lo sappiamo è alle prese con una crisi economica interna, con la svalutazione del rublo, ma cerca anche di rilanciarsi sulla scena internazionale dopo tutto quello che è successo in Ucraina e con queste mire espansionistiche che sembra ancora avere la Russia, per le quali è stata molto criticata, nonché sanzionata a livello economico sia dall'Unione Europea sia dagli Stati Uniti. Allora il titolo: il rilancio di Putin, l'incontro con Obama. L'economia frena e il presidente cerca più peso in politica estera. La prima pagina della Repubblica ha una fotonotizia ancora diversa. Il titolo invece è sempre sullo scandalo dell'auto. L'Unione Europea sapeva dei test truccati, ma appunto la fotonotizia è dedicata invece al voto in Catalogna, che è proprio oggi. È un voto amministrativo, è soltanto una parte della Spagna che vota, però è molto significativo perché la Catalogna potrebbe votare il sì all'indipendenza. Non è sicuro naturalmente la vittoria del sì, però sarebbe anche un segnale inquietante, lo abbiamo detto tante volte anche quando analizziamo i giornali europei. Sarebbe anche un brutto segnale per l'Europa, un segnale di disgregazione all'interno di un paese. Come sempre sulla Repubblica, la domenica l'editoriale di Eugenio Scalfari, che questa settimana è dedicato al viaggio del Papa in America. Il Papa e Obama parlano al mondo, ascoltiamoli. La Stampa, una fotonotizia ancora diversa e in realtà anche un titolo diverso, perché è sempre sulla questione Volkswagen, però si punta soprattutto sull'intervento di Del Rio, il nostro ministro delle infrastrutture, che dice: arrivano controlli sulle auto vendute in Italia. Vi dicevo, però, la fotonotizia è dedicata all'Expo, è una foto dell'albero della vita che è stato all'Expo a presente, è una specie di albero super stilizzato, molto alto, che a intervalli regolari fa per chi è nella zona dei giochi d'acqua e dei giochi di luce. Ci sono la foto, nella foto si vede l'albero della vita che è vicino al padiglione Italia sullo sfondo, e due visitatori dell'Expo che lo fotografano, uno con uno smartphone e uno con un iPad. Il titolo: Expo Boom, consigli contro le code. Manca un mese, perché più o meno, insomma, l'Expo finirà il 31 di ottobre, quindi ci siamo quasi, manca un mese. Ci sono voci sulla proroga, almeno per quanto riguarda l'apertura di Padiglione Italia, ma non c'è nulla di confermato, quindi quello che si sa per certo è che, appunto, chi vuole visitare l'Expo nella sua interezza ha ancora un mese per farlo. E qui La Stampa dice anche quali sono i consigli, appunto, anticode, perché come forse avete letto sui giornali nelle ultime settimane, in realtà già in agosto c'è stato proprio un boom di visitatori e naturalmente un allungarsi delle code, soprattutto davanti ai padiglioni più quelli che stanno riscuotendo maggior successo. Vi segnalo dalla prima pagina della Stampa l'ennesimo articolo sulla polemica sul libro di Saviano, che era già stato Roberto Saviano, che era già stato accusato di plagio per il suo primo libro, Gomorra. È stato di nuovo accusato di plagio, questa volta da un giornale inglese, per il suo secondo libro, che si chiama 000 ed è dedicato al traffico della cocaina. Lui si è difeso e probabilmente la polemica continuerà. In ogni caso, l'intervento di Federico Varese, quel limbo del testo di Saviano che riassume un po' la vicenda. Il Messaggero, un titolo ancora completamente diverso, che però sempre si rifà ad alcune dichiarazioni del ministro dell'economia Padoan di ieri, ed è sicuramente un argomento che tocca tantissimi italiani in questo momento, nei prossimi anni. Il titolo è: pensioni, ecco chi può anticipare. C'è un piano del governo per un'uscita subito per gli esodati, donne e disoccupati, e dal 2018 flessibilità per tutti. Il ministro Padoan: una riforma che non può essere a costo zero, allo Stato servono 1,5 miliardi. E un commento di una voce ben nota agli ascoltatori di Radio 24, Oscar Giannino, il titolo: previdenza, dosare il fisco in base all'età. La fotonotizia però invece è dedicata a un'altra notizia di cronaca che avete sentito nei GR fin da ieri sera, cioè questo giallo che c'è su questo presunto boss degli scafisti ucciso in Libia, con Tripoli che ha accusato addirittura l'Italia di aver ordinato quest'uccisione, che poi sarebbe stata eseguita, secondo appunto queste accuse, da un comando di forze di non meglio precisate forze speciali italiane. Il nostro ministro della difesa i nostri ministri della difesa degli esteri hanno già smentito. Comunque questa è un po' questa è la fotonotizia del Messaggero, che naturalmente prende lo spunto per parlare, per porre l'accento sulla necessità comunque di agire, come si dice ormai da settimane, da mesi, su appunto questi boss degli scafisti che gestiscono le partenze dalla Libia dei migranti. L'Avvenire ha una prima pagina dedicata a Papa Francesco, con l'ultima tappa nel viaggio negli USA. È un virgolettato il titolo della prima pagina: formare famiglie è sognare con Dio. Il Papa a Filadelfia: bello spendersi per amore, nella Chiesa si dia più spazio a laici e donne. Questa è un'altra delle frasi più riportate da tutti i giornali di oggi. La fotonotizia è come quella del Messaggero, cioè dedicata a questo presunto blitz antiscafisti, con queste accuse all'Italia e la replica del nostro governo: accuse false. La foto è molto d'impatto, perché è una foto dove si vede soltanto il mare, di un bellissimo azzurro, e poi questo super gommone, inquietante come sempre vederli, zeppo di migranti, naturalmente con molti più migranti di quelli che potrebbe trasportare, di molte più persone di quelle che potrebbe trasportare un gommone di questo genere. C'è naturalmente anche il titolo sulla Volkswagen: richiamate 11 milioni di auto. Il titolo della prima pagina dell'Unità: completamente diverso, torna su una vicenda che in realtà non è di su una vicenda, è su una notizia che non è di ieri, ma tant'è, quell'unità fa questa scelta, fuori gioco. Tutto il calcio scandalo per scandalo, dal FIFA Gate di Blatter e Platini alle nostre calciopoli, un mondo rovinato da pallonari e truffatori, ed è un giallo sulla vendita del Milan a Mr. B. La notizia è stata data ieri, forse avete sentito, da Repubblica, un'inchiesta che appunto sta indagando sulla vendita del Milan. C'è stata anche una querela di Mediaset alla Repubblica perché appunto queste notizie non sarebbero vere. Comunque oggi le vedremo come, se ci sono sviluppi su questa inchiesta. Poi c'è in realtà un bel approfondimento alle pagine 8 e 9 dell'Unità sul turismo. Ci sono dei dati nuovi sul turismo e molto interessanti, anche perché l'Italia è risultata nel 2014 la meta preferita dai turisti extra UE. Il manifesto ha un titolo, una fotonotizia che riguarda la Volkswagen, è un po' diversa, un po' più evocativa di quelle degli altri giornali. Il titolo è Auto da Fè ed è questa foto come presa da un grandangolo, dove ci sono tanti tanti di quei simboli della Volkswagen, che appunto è VW, perché VW Volkswagen sta per la vettura del popolo, e sullo sfondo c'è una catena di montaggio si vedono chiaramente degli operai che testano le macchine. Una foto appunto un po' strana, ma che ben si adatta a questo titolo. Naturalmente si spiega, e poi si trovano tutti gli articoli a pagina 4. L'Unione Europea sapeva delle centraline diesel truccate da Volkswagen già dal 2013, lo ha rivelato Financial Times, che conferma in realtà la denuncia del manifesto, appunto perché il manifesto aveva già parlato di questa vicenda, e questo dato sull'Italia: in Italia sono coinvolte 1 milione di vetture. La prima pagina di Libero, idee per non morire renziani, che si rifà all'editoriale del direttore Maurizio Belpietro, che parla del futuro del centrodestra. Ieri su questo ha parlato anche Berlusconi, che a oggi è ancora il leader del centrodestra, e che ha anche commentato il ruolo di Salvini elogiandolo, e poi Salvini gli ha anche risposto. Insomma, c'è tutta la cronaca e poi le riflessioni di Maurizio Belpietro. Berlusconi ha il dovere di lavorare alla sua successione, non c'è ancora un altro leader riconosciuto? Formate un direttivo che rispolveri i programmi dei moderati e contrasti il ducetto di Firenze. Il ducetto di Firenze, naturalmente, Matteo Renzi. Gli elettori e il capo arriveranno. Questo il parere e l'auspicio di Maurizio Belpietro. Il commento, come ogni domenica, va sotto il nome di Del Bestiario di Gianpaolo Pansa. Alla fine Matteo si farà il suo talk e fallirà. Il riferimento è anche a questa accusa che viene spesso rivolta a Renzi di organizzare delle interviste, o di fare in modo che le interviste vengano fatte da giornalisti che in realtà le domande scomode non gliele fanno mai. Poi c'è un articolo, non lo so, io non capisco questo atteggiamento di Antonio Socci, però può essere anche che dia qualche spunto di riflessione. Sempre, come al solito, molto critico, Antonio Socci, esponente di punta di Comunione e Liberazione, ma molto critico sul viaggio di Bergoglio. Bilancio di un viaggio, Bergoglio superstar, Chiesa addirittura umiliata. Questo è il titolo dell'articolo di Antonio Socci, che inizia in prima pagina su Libero e continua a pagina 8. Il Papa ha omaggiato i Castro e snobbato i perseguitati, parlato di ecologia e non di aborto. Queste le accuse a Papa Francesco. L'ultima prima pagina che vi segnalo prima della pausa è quella del Giornale. Chi ha protetto Papa Renzi? Qui è l'inchiesta che forse avrete seguito sul padre di Matteo Renzi. Dal governatore toscano a un PM fino alla finanza, quanti aiutini alla famiglia del Premier. E poi anche una fotonotizia dedicata a Berlusconi al suo intervento, dicevamo, di ieri alla kermesse di Fratelli d'Italia ad Atreju. Ci fermiamo un attimo. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine dei giornali, ci mancava quella del Fatto Quotidiano, che titola su una vicenda, sulla vicenda degli stipendi RAI. Il Fatto Quotidiano ci spiega la bugia del tetto, il tetto agli stipendi, che era stato introdotto da Gubitosi con questa soglia massima di 240.000 euro per i compensi. Poi c'è una falla in questa legge sui compensi ai dirigenti pubblici, che riguarda le loro mosse sul mercato finanziario. Ecco, allora Allora Viale Mazzini ha emesso un titolo di debito quotato e così ha eluso questa norma. Il risultato è che, quindi, tutto in teoria regolare, ma come sempre ci si muove in una zona grigia in cui si usano le falle delle leggi, e così si scopre che a Campo dell'Orto il presidente, il direttore generale avrà 650.000 euro e invece il presidente Monica Maggioni 366.000. E poi c'è una vignetta abbastanza divertente, devo dire, ci sono sette nani, proprio piccoli nanetti, e la polemica è quella dei sette inviati a New York per seguire sia della RAI, per seguire sia Renzi che il Papa, e quindi questi sette nanetti tutti hanno un piccolo fumetto sopra la loro piccola testa, e questi fumetti dicono: seguilo, zoomalo, applaudilo, illuminalo, riprendilo, esaltalo, leccalo. Questo è l'ultimo nanetto. La vigilanza non ha avuto niente da dire su questa vicenda, forse insomma sette sono un po' tanti per un unico viaggio, ma tant'è. La Gazzetta dello Sport titola sulle partite di ieri: Paradiso Napoli, Inferno Juve, insomma il riferimento è appunto alla sconfitta di ieri della Juventus. E poi oggi invece ci saranno in campo Inter e Milan, e questa sera la partita del Milan con la Fiorentina. Inter è la notte di Jojo, voglia di fuga, brivido viola, e naturalmente tantissimi approfondimenti sulla Gazzetta, sul calcio, c'è qualcosa anche sul rugby e sugli altri sport, c'è qualcosa sul GP di moto di oggi, però insomma come sempre il titolo principale è dedicato al calcio. Passiamo alle pagine interne. Sul Sole 24 Ore una pagina intera, la 5, dedicata sostanzialmente alle mosse della Cina in Italia. Abbiamo paura, non abbiamo paura della Cina, come vediamo questi investimenti? C'è un primo articolo di Laura Serafini che spiega come Pechino prepari l'ingresso in Poste Italiane. Poste Italiane si prepara, come avete, credo nessuno ha potuto fare a meno di notare dal tipo di comunicazione che stanno facendo, si prepara allo sbarco in borsa, all'IPO, che sta per Initial Public Offering, cioè appunto offerta pubblica di acquisto in borsa. Un fondo sovrano o la banca centrale rileveranno una quota fra il 2 e il 5%. C'è un altro approfondimento di Andrea Franceschi che ci spiega come comunque già oggi la Cina sia il quinto investitore estero a Piazza Affari, cioè in borsa italiana. E poi un'intervista di Alessandro Platerotti, vice direttore del Sole 24 Ore, a Chen Siqing, che è il global CEO della Bank of China. Molto interessante, perché questo banchiere era in Europa e poi si è fermato anche a Milano per come tappa della conferenza sugli affari e investimenti delle PMI italo-cinesi. E allora chiede Alessandro Platerotti quale bilancio ha tratto dalla conferenza, e risponde Chen Siqing: ottimo, ben 100 imprenditori cinesi sono arrivati a Milano, hanno organizzato più di 300 colloqui diretti con oltre 200 PMI italiane del settore alimentare, arredamento, macchine, attrezzature per la produzione, prodotti chimici, design industriale, abbigliamento e tessile, tecnologia dell'informazione, biotecnologia, energie rinnovabili. Il 70% degli incontri si è concluso con accordi di cooperazione. E poi ancora una domanda invece più sulle mosse della Bank of China e del governo cinese. Molti temono che la Cina stia puntando su una svalutazione di lungo termine del renminbi per favorire le esportazioni. Non è esattamente quello che gioca a favore delle PMI italiane, e risponde il CEO della Bank of China: a lungo termine non sussiste la base per una svalutazione costante della nostra valuta, che si manterrà sostanzialmente stabile a un livello ragionevole ed equilibrato. La Cina cresce più delle altre grandi economie, ha un costante surplus delle partite correnti, grandi riserve di valuta estera, una finanza pubblica sana e un sistema finanziario stabile. Questi fattori fanno sì che il renminbi sia una moneta forte a lungo termine. Sempre dal Sole 24 Ore, a proposito di export e di PMI, perché comunque quando parliamo dell'industria italiana parliamo soprattutto della sua spina dorsale fatta appunto da piccole e medie imprese, Emanuele Scarci, partendo da due analisi, una di KPMG e l'altra di Intesa San Paolo, spiega come il settore agroalimentare continui a essere un settore a forte vocazione export, ma anche rischia di essere una preda per appunto sempre il problema dimensionale. Serve gioco di squadra per avere adeguati mezzi finanziari. Dalla pagina interna del Corriere della Sera vi segnalo una bella pagina sull'Erasmus, perché un anno in trasferta all'estero, sono raddoppiati gli studenti che hanno chiesto questo anno di trasferta all'estero, e l'Europa resta la meta preferita mentre l'Asia è la nuova destinazione. Quindi l'Europa, appunto dalla cartina si vede la meta preferita, seguita dall'America Latina. Questa è una sorpresa, anche se di poco, è una meta preferita di poco rispetto al Nord America. l'America e poi c'è l'Asia. In assoluto il paese più scelto è l'Irlanda, seguito da Cina, Argentina, Finlandia, Canada, Australia, Thailandia, Danimarca, Russia e Stati Uniti. Sempre dalle pagine del Corriere della Sera un articolo che ho trovato interessantissimo di Federica Seneghini, dentro l'arca dei semi, che ci racconta questo bunker nel circolo polare artico dove si custodisce il tesoro della biodiversità, quindi tutti appunto i semi che forse un giorno di piante che potrebbero estinguersi, ma lì in questo bunker avremo il seme. Dalle pagine interne della Repubblica vi segnalo, per chi magari è appassionato di queste trame politiche che si stanno concretizzando, sia per l'approvazione della riforma del Senato, ma anche per tante altre riforme al vaglio del Parlamento, qui c'è un approfondimento di Tommaso Ciriaco sulle mosse di Verdini, definito ex braccio destro del Cavaliere. La tela del ragno di Verdini, virgolettato, inquietante secondo me, io sono un taxi che porta da Berlusconi a Matteo e così saremo al potere altri 10 anni. La Stampa ci racconta invece un po' una di quelle notizie perdute, a volte non so, sogno che i giornali abbiano una pagina che ci aggiorna sulle vicende che sono state di cronaca per qualche giorno e poi sono state dimenticate, ma che naturalmente evolvono fuori dai riflettori dei giornali. Una di queste è la situazione a Hong Kong e quindi Ilaria Maria Sala ci racconta Occupy un anno dopo, forse lo ricorderete, la protesta soprattutto dei giovani di Hong Kong, chiamata anche la protesta degli ombrelli perché in quei giorni a Hong Kong pioveva e loro si erano organizzati per avere tutti degli ombrelli gialli che erano anche molto, molto coreografici da riprendere. Hong Kong sogna ancora, fra 15 anni saremo liberi. Il leader di questa protesta, Joshua Wang, i sit-in hanno fallito, ora puntiamo a un referendum. È la eterna questione dell'indipendenza dalla Cina. Un tempo Hong Kong era un protettorato britannico, poi è tornato alla Cina, i rapporti non sono facilissimi. E poi stanotte, sempre sulla Stampa, a pagina 23, trovate le istruzioni per vedere questa spettacolare eclissi totale di luna che ci sarà questa notte. Ci lasciamo un attimo per le informazioni sul traffico. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Eravamo sulle prime pagine, sulle pagine interne dei giornali. Un'ultima segnalazione dall'Unità, il supplemento le pagine culturali, quindi in questo caso pagine 18 e 19 oggi, tutte dedicate a quello che viene definito il sogno collettivo da Freud alla Pixar. Questa è una, prende spunto, in realtà c'è anche un grande fotogramma tratto dal film Inside Out, che è l'ultimo film appunto della Pixar, ne avrete sicuramente sentito parlare, e la storia è un po' quella è la storia di una bambina e delle 5 emozioni che la guidano principalmente. Io l'ho visto settimana scorsa, è sicuramente molto divertente. Non so francamente se di fatto lo consiglierei ai bambini, perché anche a me ha molto colpito, ma forse i bambini lo prendono con più leggerezza. In ogni caso, queste 5 emozioni, gioia, tristezza, rabbia, paura e disgusto, sono nella testa della protagonista, e quindi l'Unità in queste 2 pagine di Alberto Crespi ci spiega come Inside Out dia un volto alle emozioni e catturi piccoli e grandi come la Disney al suo apice, un salto di qualità per un cinema già adulto, il cinema d'animazione naturalmente. Ma passiamo ai supplementi culturali della domenica, cominciando naturalmente dal nostro, la domenica del Sole 24 Ore. Vi leggo il breviario di Gianfranco Ravasi, che oggi si intitola Politica e parte da una citazione dello scrittore americano Robert Stevenson. La politica è forse l'unica professione per la quale non si considera necessaria alcuna preparazione specifica. Mi sono stupito quando ho scoperto l'autore di questa stoccata sui politici. Pensavo si trattasse di qualche giornalista alla Biagio o alla Montanelli. Invece è niente meno che Robert Stevenson, sì, il creatore del Dottor Jekyll e di Mr. Hyde e delle avventure dell'Isola del Tesoro. Egli infatti fu anche articolista e questa battuta è da cercare nei suoi Familiar Studies of Men and Books. Come in ogni realtà umana ci sono le eccezioni, che però ai nostri giorni stanno divenendo sempre più rare. All'incapacità si sposa di solito l'arroganza, tipica virtù, si fa per dire, dell'ignorante. Alla fine ecco la reazione opposta e altrettanto miserevole del qualunquismo antipolitico. Purtroppo però all'origine c'è la verità di Stevenson, che un attore spagnolo contemporaneo, Guillermo Puerto, così sintetizza: ingannò senza mentire, cioè fece politica. Ma vediamo invece l'altra rubrica, Memorandum, del nostro direttore, nostro del Sole 24 Ore, di Radio 24. Si intitola La fabbrica della ruota e la voglia di innovare di Biella, e come spesso accade frutto di un viaggio del nostro direttore tra gli imprenditori biellesi, e in particolare vi cito l'ultima parte. una frase che è di Pietro Sella, un famoso banchiere nella zona, che ha accompagnato Roberto Napoletano in questo mini viaggio a Biella. Un nome che pesa, scrive Napoletano, perché qui tutto intorno parla della sua famiglia, e chiude l'incontro appunto a Biella, e la frase è: i laureati dopo il 2007 non chiedono nulla, lavorano 16 ore al giorno e non chiedono nulla, ce la possono fare se almeno diciamo che il futuro dipende dal loro lavoro e dal loro impegno. Chiuse le virgolette, la conclusione del memorandum vuol dire: non priviamoli anche della speranza, come dargli torto. Ma diciamo, il pezzo di copertina della domenica è dedicato in realtà a Sigmund Freud, di cui viene pubblicato un intervento che è contenuto in questo libro Manoscritti 1933, inediti in edizione critica, ed è in realtà dedicato a Wilson, il presidente americano. La richiesta di un parere sul carattere del presidente americano fu l'occasione per dimostrare la validità della ricerca psicoanalitica. Il titolo: Le pulsioni di Wilson. E poi un interessantissimo articolo, trovate questa notizia anche sugli altri giornali, ma non con questo taglio, che si intitola Chi legge naviga meglio, e prende spunto da due papers americani che dimostrano appunto come non necessariamente l'uso di internet potenzi così tanto la capacità di apprendere e di imparare, anzi forse anche è vero il contrario. L'uso non moderato di strumenti elettronici riduce il rendimento scolastico, con la lettura tradizionale più bravi in lettere e matematica. Sono tantissime le ricerche, devo dire, in questo senso, ne abbiamo citate alcune anche in passato, però il fatto che ce ne siano sempre di nuove forse appunto conferma questa teoria, questo invito alla moderazione dell'uso dei supporti elettronici, perché forse si impara meglio leggendo sulla pagina fisica. E io sono molto contenta che ci siano delle ricerche che confermano questo, che è il mio grande forse desiderio, cioè che la carta resti sia per i giornali, naturalmente convivendo con i supporti elettronici, sia per i libri. Chi legge naviga meglio, appunto, l'articolo di Roberto Casati. E poi un altro articolo che ho trovato interessantissimo, che è di una lunga recensione del libro di Giuseppe Longo, Una suite per un bassotto. Il titolo: Nella mente di un bassotto, con una bellissima illustrazione di Guido Scarabottolo. Quante capacità o presunte emozioni che si attribuiscono al proprio cane sono invece solo un modo per parlare di se stessi? Questa è la domanda a cui si cerca di rispondere. Il supplemento del Corriere della Sera, La Lettura, che tra l'altro questa settimana compie 200 numeri, è il 200° numero, abbastanza giovane, però insomma si sta costruendo una sua personalità. Una delle sue caratteristiche è che la copertina è sempre affidata a un artista, questa settimana è Yannis Kounellis. Dall'interno vi segnalo la lunga recensione all'ultimo libro di Dave Eggers, che si chiama I vostri padri dove sono e i profeti vivono forse per sempre, la cui particolarità è che è un romanzo dialogo, e l'autore della recensione, Fabio De Otto, ci ricorda anche gli altri romanzi non sempre facilissimi da leggere che usano appunto questa tecnica, che poi è la scuola del dialogo, quindi appunto la scuola di Platone, di Diderot e Sorokin, e poi della straordinaria Virginia Woolf. Questa è una lunga recensione di due pagine, potremmo dire una recensione vecchio stile. E poi Ken Follett, invece sempre sulla lettura, che ci racconta Erika Jong, I nipoti sono più eccitanti degli amanti, è una recensione all'ultimo libro di Erika Jong, Donna felicemente sposata cerca uomo felicemente sposato. Un altro bellissimo articolo sono due pagine con opere di John Berger, che è veramente una figura eclettica, è disegnatore, illustratore, poeta, pittore, anche scultore, che ci dice il titolo di questo articolo su due pagine: La rivoluzione dei fiori, alberi, nuvole, fiumi ci parlano, invitano a un'altra resistenza, l'appello dell'artista e scrittore a ritrovare il senso delle nostre vite all'interno dell'ordine naturale delle cose, non in quello globale, avido e totalitario sotto cui viviamo. La prima pagina della Domenica Cult, il supplemento della Repubblica, è dedicata invece alle fotografie, perché è frutto di un incontro di Michele Smargiassi con Paolo Pellegrino, un fotografo dell'agenzia Magnum, quando una foto cambia la storia. Gli esempi naturalmente sono tantissimi, ma per esempio un esempio molto recente di fotografia che non so se cambierà la storia, però sicuramente ci ha tutti molto colpiti, quella del bambino di 3 anni morto sulle spiagge, trovato morto sulle spiagge spiagge turche, figlio di migranti. Anche sulla Repubblica c'è un approfondimento su Inside Out, questa volta è di Maurizio Ferraris, il titolo Cartoon Sofia, quindi non filosofia ma appunto Cartoon Sofia. Inside Out sbanca il botteghino raccontando come funziona la psiche di una ragazzina. L'altro approfondimento che vi segnalo è invece su una mostra dedicata a Tullio Pericoli, che tra l'altro è diciamo il giornale su cui vengono più spesso pubblicati i suoi disegni è la Repubblica, però proprio l'articolo di cui parlavamo prima di Roberto Casati sulla validità del leggere sulla carta è illustrato da un disegno di Tullio Pericoli, e qui il titolo Il regno del paesaggio del pittore che ama valli e campi arati, lo spunto è una mostra che si terrà fino al 26 novembre a Bologna, si intitola Sulla terra, appunto dei quadri, dei disegni di Tullio Pericoli. Ultimissima segnalazione che riesco a farvi, il supplemento del Messaggero Macro, il titolo Se i giganti del web uccidono il baratto, e questi nuovi siti come Uber, Airbnb, quello che si dedica a organizzare la permanenza nelle case private anziché negli alberghi, BlaBlaCar per spostarsi in auto, valutati in miliardi di dollari, trasformano il mondo della cosiddetta sharing economy, tradendo gli ideali originari della condivisione, perché sono in realtà appunto o stanno diventando dei veri e propri business. Questo è il parere dell'autore dell'articolo, Antonio Galdo, sul Messaggero. Era l'ultima segnalazione per oggi, una buona domenica a tutti da Giulia Crivelli.